Che titolo faresti? Alzi la palla, io schiaccio, finché c'è guerra c'è speranza. E tu Pietrangelo? La butto sui classici latini, De Bello Ilvico. De Bello Ilvico. Madonna ragazzi, vai con la canzone. Ma... capito oggi metropolitana un concetto e senza neppure l'aiuto del filosofo, e cioè che la notte è un'energia speciale e non è il riposo, piuttosto una pienezza di mondo dove ognuno, svuotato dalle cose cui è obbligato, accoglie visitatori e sorprese. E in metropolitana oggi tantissimi sono riusciti a portarsi come compagni di viaggio, arrivati dalla stazione della fantasia, tutto ciò che era arrivato loro in sogno, come per esempio le fate dalle labbra carnose, dalle gambe lunghe, fate mimetizzate tra le presenze della folla che, una volta riconosciuto, una volta scovate, portavano l'indice alle belle labbra per chiudere nel segreto il mondo loro fatto di magia e desiderio, e poi vaghezza, e quindi la canzone Umberto Bindi, Il mio mondo. Quello che hai visto? Non male. Bindi poi era proprio fortissimo, da rivalutare. Beh, come tanti di quella generazione, no? La bolla! Vai. Questo è un grande pezzo, molto nuovo. Vai, fallo sentire un po'. Si chiama Ghostwriter. Qualcuno di noi lo è stato? Un po' sì, un po' no. Ghostwriter. E facciamo un che succede, Giovanni. Ogni tanto facciamo un punto della situazione. Vi interrogherò anche. Va bene. Allora, succede che euro e dollaro sono ormai alla parità, o quasi, insomma, dipende dalle sedute. Questo sta alimentando però ovviamente le preoccupazioni delle grandi multinazionali americane, perché un dollaro alla pari con l'euro significa che per l'export di alcuni settori degli Stati Uniti si fa un po' più dura. Questo inoltre prelude a un'accelerazione entro i primi sei mesi dell'anno, quindi entro giugno, probabilmente del rialzo dei tassi della Fed, anzi si parla di accelerazione ancora più forte, cioè potrebbe essere imminente nelle prossime sedute, anche visto l'andamento dell'occupazione americana che va molto bene. E insomma, la guerra tra le banche centrali è certamente la partita più appassionante del momento, pensate anche al programma ultra espansivo della Banca del Giappone e così via. E l'Italia? L'Italia ha fatto il Jobs Act. Che è una soluzione che può piacere o meno, ma c'è, esiste e alcune imprese stanno assumendo con questo strumento. Però, come è emerso anche della tua intervista a Guerra, dove se c'era un passaggio di incertezza, mi pare fosse quello sulla questione della pressione fiscale, le tasse non diminuiscono. Secondo voi il governo le diminuirà o no? Perché secondo le condizioni sono straordinarie, sì, non subito, si ripetono. Non credo subito. Tu, canzoniere, tu? No, quella la faccia Salamino, delle tasse. No, Salamino. vabbè, niente di grave. Salamini televisivi. Oh, allora, mentre Elisa Isoardi viene cacciata dalla Rai perché è fidanzata di Matteo Salvini. Ma davvero? Sì, è così. Leggi i giornali, si dice questo. Ma sarà vero. Allora, la Rai diventa sempre di più governativa. Qui ci vuole un uomo, serve un capo vero, e la musica cambia. Ammazza, questa è... Mamma mia. E quando si muove quello lì, Matteo Renzi, ha bisogno di una carica, no? Allora, perché ha fatto sto ragionamento? Dice, la RAI non è una municipalizzata di provincia, E in una cronaca di Annalisa Cuzzocrea, oggi su Repubblica, svela dei retroscena assai interessanti, perché finalmente si è capito qual è il proposito, ancorché il futuro decreto. E dice il Matteo Renzi che la prima industria culturale italiana non può sottostare, leggo, a procedure cavillose o avere l'incubo della Corte dei Conti. Ha ragione. Ha ragione. Ha ragione. Ha sempre ragione. No, no, no, questa volta ha ragione. Sì. Altre volte no. Altre volte no. Ah. Allora, ha sempre ragione, altre volte no. Allora, me lo segno perché poi no, non perché si sa mai di dire, io te lo proprio attendo. Un po' me ne intendo, proprio, è proprio un problema. Allora, dice che vuole il manager unico. Il presidente deve essere scelto tra tre consiglieri nominati dalle camere riunite. Il canone, infine, è collegato alla bolletta, da cui si evince che nel caso in cui il cittadino non gradisca i programmi TV della RAI governativa, invece che pagarli attraverso la bolletta elettrica, li paga direttamente con la bolletta della spazzatura. Ed è una scelta definitiva sui tre canali che qui vi vado a descrivere. Uno è musica. Uno è generalista, non si fanno scelte sui contenuti e si mantiene sulle generali. Un altro invece... Uno è quello della sperimentazione, si fanno gli esperimenti, si fanno gli innesti, come che per esempio una volta si mise la minigonna al Corriere della Sera e si fece quell'esperimento. Adesso per esempio uno prende una personalità di grande profondità, quale per esempio Federica Mogherini, che si accompagna sempre a questa sigla, e la si mette all'Isola dei Famosi, così almeno fa un confronto culturale alto. E andando alla cultura invece... La cultura, ci sarà un programma culturale senza pubblicità, senza carosello. Siccome un posto alla cultura non si nega a nessuno, io faccio a te, Giovanni, la domanda fondamentale. Sì, fammi. Non gli esce. Non gli viene. Vabbè, intanto sarà lui il direttore del canale culturale. Certo, per forza. Bolla. Lo candidiamo noi. Senti qua. Dai, tirala su in regia, su. Ok, right. Allora, dove c'è guerra c'è speranza, ve l'ho detto. Vi segnalo una cosa che riguarda invece l'arte della guerra, le macchine che fanno la guerra. E, come sanno i nostri ascoltatori, noi seguiamo con attenzione cosa accade nell'industria della difesa, perché poi diventa anche fatto di tutti i giorni, perfino elettrodomestico qualche volta. Pensate, che ne so, all'evoluzione dei GPS, tanto per dire. Ebbene, la United Technologies, che è quella che costruisce, per intenderci, l'elicottero da combattimento Black Hawk Down, fa uno spin-off, cioè separa la divisione dall'azienda. Vale 7 miliardi di dollari quell'unità. È una cosa molto interessante da seguire, anche perché chi ha passione per gli investimenti, questo settore lo deve guardare con molto interesse, perché per esempio la Northrop Grumman, che è quella che produce bombardieri e droni, sai quanto ha guadagnato negli ultimi 5 anni? Il 200%. Mix 24. Sara, finalmente ritornata. Le Spice Girl sono un simbolo della Gran Bretagna. Grande paese è la Gran Bretagna, vero Mario? Yes. Ma ti piace così tanto perché in Gran Bretagna le leggi si rispettano? Of course. Oh, sembra Severgnini però, eh. Allora ti informo di una cosa importante. Stanno valutando una nuova norma antifurbetti e prevede che chi non paga gli alimenti all'ex coniuge si troverà spogliato della sua patente e del suo passaporto. Sono geniali questi inglesi. Così, se tagli i viaggi e i costi derivanti dall'uso della macchina, eccoli lì che ti ritrovi i soldi per pagare gli alimenti. Che ne pensi, Mario? Vive la France. Ancora il salamino. Do dopo la festa gabbato lo santo. Silvio Berlusconi è stato festeggiato, ma come ha detto Laura Ravetto, assente alla festa di ieri, è bene che resti il casino virtuoso. Davvero? È una bellissima immagine questa del casino virtuoso, una categoria della politica dove neppure Carl Schmitt poteva arrivare. E però devo dirvi che ieri mi sono ritrovato nel bel mezzo dei festeggiamenti, perché dalle parti di via Plebiscito ho visto quello che stava succedendo e ho visto il cavaliere con il Proust sotto il braccio cercare Proust. Il tempo perduto, sì. Proust. Anche lui legge Proust. E non è che Proust lo deve leggere solo Madame Verdurin, lo legge pure lui. E ha detto: tornare in TV, riprendermi il partito. Vuoi fare tu il doppiaggio? Tornare in TV o riprendermi il partito. Ah, è perfetto. Ma lo sai come è bravissimo? Sa fare anche Tremonti. Pianta. Pianta, dai. No, veramente degeneriamo. Andiamo alla... Allora, la sostanza è questa. La sostanza è questa. Cominciano dunque i 100 giorni di Berlusconi. 100 parlamentari e 100 militanti si ritrovano nel cortile di Palazzo Grazioli. E come nella voglia matta, tutti loro circondano il capo come fosse toro seduto. E hanno messo questa musica. E c'erano tutti quanti a fare il giro tondo, festoso e allegro intorno a Berlusconi, che come toro seduto con il suo cappello piumato li accoglieva. Ed erano 100 che fanno 300. Però non è spietato il vendicatore, anzi è dolce, e ha detto: porterò per sempre nel cuore questo ricordo. Ora però basta commozione, bunga bunga per tutti, ma dopo la festa gabbato lo santo, e la morale, caro Giovanni, è tutta in questa canzone. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo. Solo. Marina, che Marina Milone, che cosa succede con la storia dell'economia dopo il giornale radio? Oggi, quarta tappa del nostro viaggio nell'economia. Raccontiamo la Bolivia degli anni Ottanta, sull'orlo di una grave crisi. Poi andiamo in Polonia, nella Polonia di Solidarnosc. E poi in Russia, quando crolla il sistema dell'Unione Sovietica. Raccontiamo il delicato passaggio da un'economia di Stato all'economia degli oligarchi. Mario, c'hai, grazie, c'hai rapidissima con una fantastica canzone, vai. Allora, un intro di chitarra dei Dire Straits con salto dello swing per dire che cosa? Che Alibaba, gigante cinese dell'e-commerce, investe 200 milioni in Snapchat, che è un sistema di messaggistica, diciamo così, per esigenze di sintesi. E uno si chiede: perché investi in quel settore là? Perché lì non passano solo le chiacchiere, come pensano gli ingenui, ma passa il denaro, passa la merce, passa l'e-commerce. Segnalo che nel 2020, in 5 anni, un altro miliardo di abitanti della Terra sarà connesso con uno smartphone. I soldi stanno là. Ricordo che Mix 24 torna dal lunedì al venerdì, ogni sera alle 23 c'è la replica. Prima della pubblicità, Strada facendo di Claudio Baglioni. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è.